me. Una linea si deforma lentamente, cammino velocemente, che non riesci a starmi dietro neanche se ti metti a correre. Mi guardo indietro, ti cerco, ma non vedo altro che la polvere. Mucchi di sabbia spazzati via, sono gli ostacoli che il vento porta via. Sceriffo, vecchio leone, io sono un uomo senza legge né padrone, vecchio bastardo, cane segugio, fino all'inferno scopriresti il mio rifugio. Ora nel mirino punti solamente me, che cerco inutilmente una via di fuga o qualche buca per nascondermi. Mi guardo intorno, la vedo grossa quasi quanto una voragine, ci cado dentro, Dio mi ha dato una mano. Rotolo piano fino in fondo al vulcano. Il tempo passa, mi accorgo che più mi allontano e più sei dietro di me. Sento il tuo fiato e quello del tuo cavallo, stella d'argento e più ostinata di te. Al vulcano. Oh, oh, oh, oh, oh. La la la la la. Ormai son troppo lontano.